Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera un'altra tappa del nostro viaggio nella chimica verde. Parleremo di fertilizzanti. Quella dei fertilizzanti è un'industria che consuma dal 3 al 5% per dare un'idea dell'energia prodotta nel mondo e la cui domanda di prodotti, appunto, si prevede crescerà del 25% nei prossimi 15 anni. Ed è un'industria cruciale, come si intuisce facilmente, perché da essa dipende la produttività dell'agricoltura e di conseguenza anche la possibilità di sfamare una popolazione che ormai su scala mondiale sta andando verso i 10 miliardi di persone. Ebbene, anche in questo settore iniziano a materializzarsi i fantasmi tipici della nostra epoca, come il rischio che alcuni composti fertilizzanti molto importanti diventino in futuro sempre più scarsi. Ne parliamo con Fabrizio Adani, che è professore del Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell'Università di Milano ed è proprio un esperto di biofertilizzanti. Buonasera Adani. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, senta, intanto facciamo un po' di formazione di base in agricoltura. Quali sono i composti fertilizzanti più importanti, che poi sono quelli che troviamo dentro il fertilizzante che compriamo anche al supermercato, no? Sì, diciamo che definizione, più importanti sono i macronutrienti, perché vengono richiesti in maggiori concentrazioni e maggiori quantità. Poi tutti sono chiaramente importanti, certo. Essendo richieste in elevate appunto quantità, ne serve veramente, ne serve molto, e quindi dobbiamo avere un approvvigionamento appunto continuo. E quali sono? Questi sono sostanzialmente l'azoto, il fosforo e il potassio. Su tutte le confezioni di fertilizzante c'è questo NPK, questi tre numeri che sono iniziali appunto di azoto, fosforo e potassio, e sono i tre appunto macronutrienti più importanti. Sono i macronutrienti, vengono riportati solamente il titolo del fertilizzante, quindi la quantità di azoto, fosforo e potassio che sono appunto contenuti. Su quali di queste sostanze c'è un problema di scarsità, magari solo in prospettiva? Allora, il problema è quello che ci si inizia appunto ad accorgere adesso, appunto, perché il fosforo e il potassio, ma soprattutto appunto il fosforo, sono delle fonti finite. Per fare appunto un paragone, un po' come il petrolio sta finendo e stiamo cercando quindi delle fonti rinnovabili, anche il fosforo e il potassio stanno per finire, soprattutto appunto il fosforo. Ecco, perché l'azoto si è scoperto ai tempi, credo addirittura della Seconda Guerra Mondiale, si può ricavare dall'atmosfera. Sì, si ricava dall'atmosfera, no? Anche se la reazione è fortemente energivora, tant'è che per produrre una tonnellata di urea ci servono 4 barili equivalenti di petrolio, quindi in termini ambientali, quasi uno a uno, in termini energetici comunque si paga un prezzo che non è proprio indifferente. E invece altri, tra cui il fosforo, dicevamo, che sono finite le miniere di fosforo a buon mercato, c'è il fosforo in giro, ma è difficile tirarlo fuori. Pone un problema di tipo geopolitico, sostanzialmente l'85% delle riserve di fosforo è concentrato nel Marocco, quindi aumentando la popolazione del 50%, aumentando poi la richiesta di fertilizzanti del 40-50%, è chiaro che aumentano i prezzi e stanno aumentando con una un'incidenza abbastanza importante sul costo dell'agricoltura, quindi sul costo anche del prodotto agricolo, e poi in futuro speriamo che il tutto non porti anche a delle tensioni di tipo geopolitico, così come è stato per il petrolio. Ecco, senta, qui l'idea naturalmente è bene, puntiamo sui biofertilizzanti, e qui uno dice, vabbè, ma non si è sempre sparso il letame in fondo sui campi per concimarli? Qual è il punto, quindi? Sì, infatti, stiamo parlando di un qualcosa che diciamo è molto antico, già se ne riportano appunto varie notizie già all'epoca appunto dei Romani, cioè il recupero di quelle che sono appunto le biomasse, più facilmente appunto il recupero del letame. Però il concetto è un po' diverso, noi dobbiamo distinguere tra gli ammendanti, qual è il letame che è importante perché mantiene la fertilità del suolo, e invece i concimi, l'azoto, il fosforo e il potassio, che per mantenere le produttività che abbiamo raggiunto appunto ora devono essere appunto dosati in elevate quantità in certi periodi dell'anno, cosa che non può garantire il solo appunto letame. E quindi che cosa serve? Servono delle tecnologie, diciamo, di raffinazione, se così possiamo dire, di questi scarti che sono a valle della filiera della produzione principale, per esempio di cibo, eccetera eccetera, per... Sostanzialmente che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo con l'innovazione appunto tecnologica andare a trovare delle biotecnologie, delle tecnologie che sono in grado di recuperare proprio i nutrienti tali da andare a produrre quelli che sono poi sostanzialmente dei concimi di tipo rinnovabile, perché poi si perpetuano appunto nel tempo, in grado di sostituire integralmente il concime chimico, ma avendo una medesima puntuazione. Ecco, ma è immaginabile in futuro che le aziende agricole diventino indipendenti dal punto di vista del consumo di fertilizzanti, cioè siano in grado di produrseli tutti al loro interno? Sì, perché abbiamo già degli esempi che stiamo monitorando, in cui abbiamo delle aziende che abbiamo anche certificato che utilizzano renewables fertilizer, cioè fertilizzanti rinnovabili autoprodotti in azienda. Quindi da un punto di vista tecnologico non manca nulla? Sostanzialmente no, e quello che mi fa piacere è che anche, come diciamo noi, tecnologia made in Italy. Bene, bene, grazie a Dani. Ci mancherebbe, grazie a tutti gli ascoltatori. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento domani sera.